America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, l'Assemblea Generale dell'ONU ha votato a favore del riconoscimento della Palestina come Stato non membro, nonostante l'opposizione di Stati Uniti e di Israele. Una giornata storica dunque, sotto molti punti di vista. Dal 74 la Palestina era già osservatore permanente all'ONU come entità e a questo punto diventa Stato non membro, che è una formula, come dire, un po' ibrida ancora, ma che ha scatenato le piazze a Ramallah e in Palestina. Grande momento dal punto di vista dei palestinesi, una risoluzione che è passata con 138 voti a favore, dunque grande maggioranza, 9 contrari, 41 astenuti. Sentiamo Abbas. The Israeli aggression against our people in the Gaza Strip has confirmed once again the urgent and pressing need to end the Israeli occupation. Avete sentito Abbas, un discorso ispirato, ha cercato di evocare le più grandi aspirazioni del suo popolo, ha definito questo momento come un momento di straordinaria ispirazione per i palestinesi, ma per tutto il mondo arabo, per tutto il mondo libero, ha detto, ha ricordato che ci sono continue costruzioni di insediamenti, li ha denunciati, ha parlato di occupazione militare, discriminazione razziale. Questa politica, ha detto, viola la legge internazionale e i diritti umani. Dunque un discorso anche molto aggressivo nei confronti di Israele, un discorso che non ha aperto, come forse avrebbe sperato la Gran Bretagna, cercando di dire, beh, cerchiamo un dialogo diretto, cerchiamo anche a questo punto di passare a trattative per la pace. E sentiamo cosa ha detto l'ambasciatore israeliano Ron Prosson. Mr. President, this resolution will not advance peace. This resolution will not change the situation on the ground. It will not change the fact that the Palestinian Authority has no control over Gaza. La Palestina deve prima di tutto riconoscere lo Stato israeliano, un riferimento molto diretto questo ad Hamas, che vuole distruggere lo Stato di Israele, figuriamoci riconoscerlo. E poi un attacco politico, fino a che Abbas preferirà le cose simboliche alla realtà, ha detto l'ambasciatore israeliano, preferirà volare a New York invece che spostarsi fino a Gerusalemme per negoziare, non ci sarà speranza per la pace. E poi un'osservazione dal contesto storico, perché ieri era il 65esimo anniversario di quando nel 1947 questa stessa Assemblea Generale aveva sancito la nascita di due stati, uno israeliano e uno palestinese. Dunque polemiche soprattutto dalle parti in causa. Hillary Clinton a un certo punto ha osservato che la strada per la pace passa attraverso il dialogo diretto a Ramallah e a Gerusalemme, non per New York. Sentiamo un altro intervento, quello del ministro degli esteri turco Ahmet Davutoğlu, un discorso accolto da una pioggia d'applausi, anzi devo dire il discorso che forse ha raccolto più applausi. The reality of the Palestine is simple, yet a harsh one. It is in the heart of the Palestinian people who have been subjected to exiles, massacres, wars, collective punishment and blockade for many decades. Gli applausi sono venuti perché è stato un discorso molto ispirato. La Palestina ha detto una prigione a cielo aperto, ha invitato tutti a votare prima che ci fosse il voto, sottolineando che si trattasse di una questione di dignità. E poi si è chiesto e ha chiesto a tutta l'Assemblea, se non ora, quando? Dunque il quando è arrivato, il quando è arrivato, ma le polemiche restano. Ho con me i microfoni di America 24, Maurizio Molinari, corrispondente della Stampa, che ha seguito con me da vicino questi sviluppi di ieri. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Mario. Allora Maurizio, insomma, grande entusiasmo, abbiamo visto manifestazioni di gioia dalle piazze arabe, soprattutto da quelle palestinesi di Ramallah, però qualcuno dice, beh, insomma, se dobbiamo essere realisti, forse non tuttora è quel che luccica. Cosa pensi? Ma penso che ci sono due dati. Il primo è la vittoria politica di Mahmoud Abbas, il presidente palestinese, stretto nell'angolo dei successi militari e politici di Hamas, indebolito nei territori palestinesi, in Cisgiordania, al punto da non rischiare la rielezione. Sono 3 anni che bisognerebbe fare le elezioni e lui non vuole farle. In realtà è riuscito, grazie a questo colpo di mano diplomatico, a diventare il leader condiviso dei palestinesi. Anche Hamas ha applaudito a questa operazione, corteggiato da dozzine di capitali dei cinque continenti. Ecco, però scusa Maurizio, in effetti questo è stato uno dei punti chiave, per esempio uno dei punti che ha spinto alcuni paesi europei a cambiare posizione e a votare a favore di Abu Abbas, perché si diceva in questo modo rafforziamo chi vuole la pace e indeboliamo Hamas. Ma non c'è il rischio che nel medio periodo invece Hamas si rafforzi? Infatti il secondo punto è che quello critico sollevato da Hillary Clinton, il segretario di Stato americano, quando dice questo voto rende più difficili i negoziati e rende più difficile il cammino verso la pace. Perché? Perché si tratta di una risoluzione unilaterale che viola nel testo e nello spirito gli accordi di Oslo del 1993 e 1994, sulla base dei quali è stato costruito il processo di pace fra israeliani e palestinesi, perché si fondano sul mutuo riconoscimento, cioè la pace si raggiunge attraverso intese bilaterali e non atti unilaterali. L'atto unilaterale compiuto dai palestinesi presentando la risoluzione che è stata approvata rompe, viola, delegittima gli accordi di Oslo. Per questo, da oggi, il cammino verso il negoziato, come dice Hillary Clinton, è molto più difficile e paradossalmente quindi a rafforzarsi sono chi? Quelli come Hamas, che si sono sempre opposti alla pace con Israele. Ecco, però era anche forse giunto il momento che ci fosse, come dire, un passo in avanti, un briciolo di speranza per il popolo palestinese, che poi questo Stato non lo vede mai decollare. Abbiamo visto quanti negoziati ci sono stati, tentativi per esempio di Bill Clinton a suo tempo, che arrivò a un passo dal raggiungimento di un accordo. Dunque, secondo te non ci dovrebbe essere un po' di indulgenza da parte di Israele, da parte degli Stati Uniti? Tu credi che alla fine decideranno di tagliare i finanziamenti, per esempio, ai palestinesi? Io credo che in queste ore Gerusalemme e Washington stanno decidendo assieme le contromosse al successo del blitz palestinese alle Nazioni Unite. Vedremo nelle prossime ore, sicuramente nei prossimi giorni, cosa saranno. Di certo l'irritazione dell'amministrazione Obama si spiega con il fatto che il presidente avrebbe voluto essere lui a prendere l'iniziativa in Medio Oriente, magari invitando Abbas e Netanyahu alla Casa Bianca o andando lui in Medio Oriente, a Ramallah e Gerusalemme, tentando di rilanciare il negoziato. Questo progetto però naturalmente adesso deve essere ritardato. Non è un caso che nelle ore precedenti al voto il numero due del segretario di Stato, Bill Burns, è andato personalmente nella suite di Mahmoud Abbas a Manhattan a ingiungergli di non andare avanti con il voto, dicendogli è il presidente che lo chiede, perché è il presidente che vuole prendere l'iniziativa. Ecco, scusa Maurizio, la risposta di Abbas è stata liquidatoria, non essere patetico. Ecco Maurizio, c'è un altro punto che può creare dei problemi, il fatto che la Palestina vada ad appellarsi a far parte della Corte Penale Internazionale, la Corte Criminale Internazionale. Ecco, questo naturalmente le consentirà di portare un caso contro Israele che potrebbe essere facilmente condannabile dal punto di vista di questa Corte. Secondo te questo è un elemento aggravante? Hai ragione, questo credo che sia uno dei punti di fondo. Da lì l'interesse per l'intervento dell'ambasciatore italiano all'ONU, Cesare Ragaglini, quando ha giustificato il sì italiano alla risoluzione con le garanzie che il presidente Abbas avrebbe dato al presidente del Consiglio Mario Monti sul fatto che la Palestina non chiederà l'adesione al Tribunale Penale Internazionale proprio per non innescare il processo che tu hai appena descritto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo essersi sciolti appena lo scorso anno, i Sonic Youth stanno ora pensando di pubblicare materiale inedito come il filmato di un loro tour dell'86 e l'audio di un concerto del 1985 e altre rarità. E dunque ai Sonic Youth dedichiamo la canzone del giorno, Teenage Riot. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!